www.runtimeradio.it. Vieni a scoprire la Radio Geek. Tra le onde del mattino, tra il sussurro e il destino, Simone Pizzi guida il cammino con occhi da matto, senza confini. Un viaggio di parole, un incontro genuino, nel cuore della vita, nel suo intimo, rincorrersi. Ah, belli de casa, buongiorno, buon sabato mattina a tutti. Come già è successo qualche volta, il Grande Reset in una versione sabatina invece che venerdina. Ma questo perché ovviamente, come vi ho annunciato ieri, ci sono stati dei problemi tecnici. Dice, vabbè, ma allora adesso stai meglio? No, faccio la diretta direttamente dal cesso. Però va bene, tutto questo è sicuramente molto bello ed elegante e vi fa sicuramente molto piacere saperlo. Però insomma, meglio rispetto a ieri, ma ancora non quanto avremmo voluto. Ragazzi, io vi ricordo una cosa importante prima di iniziare questa super puntata, che questa sera è la sera. Insomma, dopo tanti anni che facciamo questa cosa, siamo felici, anche un po' emozionati di ritornare a fare un qualcosa che riguarda la nazionale italiana di calcio, che riguarda gli europei, che riguarda il calcio appunto, ma che allo stesso tempo riguarda tutto tranne che il calcio. Perché se volete vedere la partita dell'Italia perché state in compagnia con gli amici, però di fatto proprio di vedere la partita non ve ne può fregare di meno, mettete la partita, abbassate il volume, ascoltate noi su runtimeradio.it questa sera alle 20:50, perché inizia il primo episodio di Euroludica 2024, che è il nostro programma meraviglioso con il quale noi seguiamo le partite dell'Italia e degli europei. Per chi la conosce già, il programma sa più o meno cosa si deve aspettare. Per chi non lo conosce, boh, secondo me vi conviene ascoltarla, così, a meno che non siate proprio un iper appassionati, vuole sentire la telecronaca proprio, quella lì proprio che ti dico, ha capito, insomma. Amici di Runtime Radio, siete pronti a scendere in campo con la trasmissione più pazza di questo europeo? Non perdete Euroludica 24, il programma che vi porta dritti in porta, ma senza parlare di calcio. Mentre gli azzurri danno il massimo sul campo, noi vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere sui paesi avversari, dalle ricette segrete della nonna spagnola ai festival più stravaganti dell'Albania. E non finisce qui, vi sveleremo le regole del calcio come non le avete mai sentite, interpretate dalle menti più brillanti del nostro staff, le donne. Ma attenzione, potremmo ricevere una chiamata dal presidente di Narnia o dal ministro della felicità di Atlantide, perché i nostri collegamenti sono così esclusivi che non li troverete su nessuna mappa. Quindi, se volete ridere e imparare a tifare Italia in un modo tutto nuovo, sintonizzatevi su Euroludica 24, solo su Runtime Radio, la web radio geek. Euroludica 24, la trasmissione che fa gol a furia di cazzo... col divertimento. Volevo dire col divertimento. Euroludica 24, dal 15 giugno, sempre e solo su runtimeradio.it. Go, abbiamo fatto go. Vabbè, comunque, basta, gol, basta, no? Un po' che cazzo? Io, vabbè, ma io veramente oggi proprio guarda, oggi c'è qualcosa che non funziona. Ecco qua, la sistemiamo subito, perché insomma, ecco, sbagliato sottofondo, radio. Vabbè, oggi è un po' tutto così a cazzarola. Intanto faccio un grosso in bocca al lupo e un pensiero di cuore a Michela, che questa mattina sta andando a fare una ricerca. Voi sapete che loro col progetto Nash cercano i cani scappati, scomparsi, ovviamente con le loro squadre hanno tutte una tecnica ovviamente di ricerca con i cani che sono addestrati per fare questa cosa. Questa mattina ieri è sparito un cane di 3 mesi. E quindi il mio pensiero va a loro, che questa mattina vanno a fare una cosa che difficilmente potrà avere un epilogo positivo, e quindi niente, volevo fare questo pensiero, insomma, sperando che poi invece vada tutto bene e ci sorprenda questa situazione. Un altro pensiero invece lo voglio dedicare al fatto che da qualche giorno Microsoft Edge, che è il browser che utilizzo primariamente per fare le mie navigazioni, ha un bug, secondo me, con YouTube, e quando faccio partire un video mi fa vedere tutti i video integrali degli spot, e non solo, vabbè, si sa che ci sono alcuni spot che possono essere saltati, alcuni spot che non possono essere saltati, però in particolare non c'è proprio l'interfaccia, quella che ti conta i secondi oppure ti dice skippa, vai avanti e via dicendo. E tu, sono praticamente una settimana che praticamente ogni volta che faccio partire un video partono due video, non uno, due video di promozione sui guru che devono far fare i soldi. Lo sapete che è una cosa di cui ho già parlato, è una cosa che mi fa incazzare in una maniera incredibile, e in più poi non è che ci fanno lo spot e ti dicono due cazzate, no, due minuti a spot, insomma, vabbè. E quindi sono tornato a Firefox, perlomeno per la navigazione su YouTube, e questo mi ha reso molto più felice, perché lo stesso problema ce l'ho con Chrome, quindi evidentemente condividono lo stesso bug, magari, come mi spiegava Giuseppe Pugliese, forse anche lo stesso engine, come dicono alcuni, ma ragazzi non si dice engine, si dice engine. Ve lo dico perché lo sento dire da tanti, sono youtuber gagliardi, di quelli che fanno perché questo gioco è in Unreal Engine, ma che cazzo dite, porca puttana, ma poi ci avete giocato a Daytona senza la giochi? Gentlemen, start your engine, non è che diceva gentlemen start your engine, eh? No? Non ci avete giocato perché siete dei cazzari, perché il vostro scopo è quello di andare a YouTube a fare i cazzari e prendere soldi. A proposito di YouTube e di cazzari, mi ricollego invece alla cosa che stavo dicendo prima, un'altra maledizione che io spero che chi ha inventato questo abbia subito la punizione più giusta, più democratica, che è quella di essere mutilati d'un braccio, non so, qualcosa del genere, che dopo essere spariti, insomma, diciamo spariti, dopo essersi ridimensionato il fattore di tutti quei youtuber che compravano la roba da Amazon, facevano gli unboxing e poi rispedivano la roba a Amazon per far vedere che erano i recensori della roba tech, no? Che ammazza questo, che figo. Ed era una cosa che andava di moda tantissimo, perché se tu cercavi come fare soldi con YouTube, c'erano tutti sti fuffaroli che ti spiegavano come fare, no? Quindi la gente lo faceva, di 100 persone che facevano sta cosa mezzo otteneva qualche risultato, e ovviamente creavi nel frattempo un danno incalcolabile ad Amazon e a tutte le persone oneste che alla fine utilizzano Amazon in maniera corretta, e che se hanno rimandato mai indietro un prodotto l'hanno rimandato perché comunque era veramente necessario rimandarlo indietro. Quindi adesso questi qua sono stati sostituiti, dato che il tema più o meno, ritorniamo oggi un po' a parlare di intelligenza artificiale, sono stati sostituiti da quelli che ti dicono: sai che c'è un sistema onesto per guadagnare 50 euro al giorno senza fare i miliardi, ma è un sistema affidabile, gagliardo e tosto? E qual è? Quello del self-publishing, ossia vai con l'intelligenza artificiale, scrivi il tuo libro a cazzo di cane e riempiamo Amazon di ulteriore merda, no? E giustamente poi alla fine questa cosa farà in modo che ti creerà una rendita, ma non è che crea una rendita a te, crea una rendita a loro, a quelli che ti propongono di fare questa cosa, perché loro si propongono come publisher, quindi loro su 150-200 persone che fanno sta cosa e mandano i libri, a loro, cioè nel senso, sono loro che pubblicano i 200 libri, quindi anche se YouTube, Amazon gli manda indietro qualche soldo, tanto se li prendono loro i soldi. E poi se avanza qualcosa te le ritracciano a te. Io quello che non riesco a capire, ragazzi, come fate ancora a non aver capito che tutti queste persone applicano tutte quelle teorie piramidali del multilevel marketing, dalla quale ovviamente quelli che ci guadagnano sono loro e non voi. Ma cioè, cazzo, ragazzi, dovreste averlo capito, sta roba esiste dal 1950, oh, ma svegliatevi. E poi ma basta con sta cosa dell'intelligenza artificiale che scrivete le cazzate. L'altro giorno mi ci sono messo pure io per fare una prova. Crea un libro per bambini, una storia per bambini, ma delle porcate incredibili. E poi ci sarà sicuramente qualcuno che ci casca e lo compra il libro, perché magari, che ne so, cercano storie per bambini su Amazon, magari quello c'ha il titolo più accattivante con i disegnini fatti, però cioè, ma cazzo, ma non ci avete un minimo di dignità? Di oh, quasi quasi mi piacerebbe imparare un mestiere e fare dei soldi su quello che ho imparato a fare. No, dovete guadagnare non facendo un cazzo. Cioè, ci avete, che ovviamente non funziona, ve lo dico, giusto spoiler, così insomma, tanto per eventualmente non ve ne fosse accorti. Comunque, dato che partiamo con un discorso, tornando a parlare un po' di intelligenza artificiale anche in maniera laterale e collaterale, beccatevi il brano fatto con l'intelligenza artificiale. Questa era The Night of the Robots, che a un certo punto finisce e poi ricomincia, fa capire che ancora insomma c'è qualcosa che non va. Voglio parlarvi un attimo di questa cosa, ovviamente dei generatori di musica, di musica ovviamente basati sul deep learning, che si trovano oggi su internet, al di là del fatto che Eleven Labs, che è praticamente la società che sviluppa allo stato attuale forse il miglior modello di speech basato ovviamente su intelligenza artificiale che ci sia in assoluto, anche se poi dopo ci sono quelli con lo speech recitativo tipo replica e via dicendo, però insomma diciamo che i migliori modelli di voce naturale sono quelli di Eleven Labs, e Eleven Labs in settimana ha praticamente annunciato il suo modello Canoro, cioè ossia praticamente il suo modello di generazione di canzoni e di cantato. E il vantaggio rispetto agli altri competitor è il fatto che tu su Eleven Labs puoi addestrare la tua voce, ossia praticamente tu puoi clonare la tua voce e puoi creare un modello di cantato basato ovviamente sulla tua voce, il che tra l'altro, al di là di tutte le implicazioni e le cose che non ci piacciono di questa cosa qui, e va bene, non ne parliamo oggi, cioè nel senso lo sappiamo, penso che ci siamo capiti un po' su questa cosa. È comunque interessante, perché se uno vuole fare un esperimento e fare il suo disco, diciamo basato su intelligenza artificiale, ovviamente con gli altri strumenti tipo Suno e Udio, c'è il problema che ogni volta le voci sono diverse, a meno che ovviamente non metteranno un sistema di prompting basato ovviamente sul dare, addestrare o istruire praticamente il tool ad utilizzare più o meno sempre la stessa voce, in modo che ci sia una coerenza dal punto di vista canoro nei vari brani che uno si va a realizzare. Però ecco, questa cosa di Level Labs secondo me ovviamente porta un pezzo avanti. Sono scordato di salutare Samuel e mi sono scordato di salutare anche Walter, che vedo che insomma sono in chat. Walter penso si sia svegliato da poco. Comunque i Level Labs ha annunciato questa cosa, ma ancora non è disponibile, quindi attendiamo prima di sperimentare quello che ovviamente ci mette a disposizione. Mentre che Udio, che è secondo me in questo momento quello più articolato come tipo di strumento, è stato aggiornato recentemente, mette a disposizione uno strumento in più per sia per chi lo fa gratuitamente che per chi lo fa in abbonamento. In abbonamento addirittura puoi selezionare dei segmenti specifici e fargli ripronunciare o ricantare delle frasi riscrivendo. Evidentemente se ci sono degli errori, delle sbafature sullo speech, anzi sul cantato, ovviamente tu puoi ovviamente andare a lavorare sui segmenti. In più ci sono tutta una serie di opzioni che ti permettono proprio di lavorare sui blocchi delle canzoni, che lo rende sicuramente il sistema più evoluto da questo punto di vista, almeno ad oggi. Mentre Suno, che era secondo me quello che era partito meglio da un certo punto di vista, in 6 mesi è stato aggiornato dalla versione 2.0 alla 3.0 alla 3.5. La 3.5, che è la versione che è uscita proprio in questi giorni, devo dire che è veramente sorprendente e fa fare un salto di qualità allo strumento, raggiungendo forse la qualità di Udio, perché Udio secondo me a un certo punto l'ha proprio scavalcato. Questa 3.5 non solo è migliore nella parte canora, soprattutto dal punto di vista vocale, dal punto di vista della pronuncia, non ci sono praticamente quasi più sbaffature nella pronuncia, negli errori di dicitura e via dicendo, è molto più coerente il background musicale, tutta la struttura musicale, e soprattutto fa i brani di 4 minuti, cioè brani fino a 4 minuti, mentre che prima faceva a brani di blocchi di 2 minuti, e quando ovviamente era finito il blocco di 2 minuti dovevi poi fare un'estensione e dargli le istruzioni su cosa doveva fare alla fine. Ecco, questo brano che avete sentito prima, The Night of the Robots, che è attinente diciamo con quello che tra poco vi dirò, devo dire che non è venuto male. Poi ieri abbiamo fatto un esperimento con un mio amico che ha scritto canzoni per tanti anni della sua vita, mi ha dato dei testi che non ha mai musicato, e ci stiamo lavorando sopra, e devo dire che sta avvenendo della roba veramente carina. Sempre a livello sperimentale, io penso che comunque chi fa professionismo musicale o chi vuole dare una interpretazione diciamo artistica, l'aspetto insomma della produzione umana rimarrà sempre una spanna sopra. Però per chi vuole provare a comunicare qualcosa e dargli delle sonorità e ci vuole perdere tempo, perché insomma io su una canzone in particolare ci ho perso quasi 2 settimane poi alla fine, quindi c'è comunque tra virgolette un lavoro dietro, no? Se chi vuole provare a esprimere cose insomma fatte in una certa maniera e vuole lavorare meticolosamente, come si dice, adesso mi c'è un momento di bug, insomma ci sono questi strumenti che ti permettono insomma di fare cose carine, non essendo ovviamente dei professionisti. Questa cosa è una cosa che ci fa un po' accapponare la pelle dall'altra parte, ma tutto sommato è quello che è successo quando l'era del digitale ha invaso il videomaking, dove a un certo punto per l'accessibilità e la democraticità insomma di quelle che erano le tecnologie, il mondo del videomaking è stato invaso da porci e cani, giustamente il vero professionista si è sentito minacciato. Quindi poi alla fine, tutto sommato, secondo me, al di là dello scossone iniziale, poi le cose si livelleranno, anche se poi dopo esprimeremo altre considerazioni su quello che vogliamo dire. Mentre che chiudo questo segmento dicendo che abbiamo visto il chinotto, come lo chiama Alex Raccuglia, di Apple, l'ultimo della WWDC, e devo dire che è stato un disastro. E io ho fatto una riflessione durante questo evento, dicendo che queste aziende, in particolare Apple, che ha innescato questo meccanismo, sono talmente costrette a tirare fuori delle novità ogni 6 mesi/1 anno, che l'anno in cui per qualche ragione tu non ci riesci diventa un effetto devastante, una deflagrazione veramente importante. E riflettevamo anche con Walter Sbano l'altro giorno sul fatto che Nvidia è diventata più importante dal punto di vista anche finanziario e borsistico di Apple, e lui si domanda come possa essere, e può essere in questo senso qui, che comunque Apple è arrivata a un punto in cui in questo meccanismo di necessità di partorire determinate cose, soprattutto per il fermento degli azionisti, si è presentata con un evento che avrà delle conseguenze, ovviamente, perché non solo hanno presentato la fuffa, ragazzi, hanno presentato la fun, cioè non hanno, hanno presentato le stronzate, niente di sostanziale, tutte cose molto come posso dire, estetiche, ma niente di particolarmente impegnativo. E poi ci hanno presentato questa cosa della AI, della Apple Intelligence, che tra l'altro alcuni influencer su YouTube, incredibile, e invece sono stato felice di vedere che invece il 60-70% degli influencer, anche quelli Apple, mio Dio, signore Apple, hanno detto, regà, cioè, che cazzo è sta roba? Perché non solo sono indietro di 2 anni almeno sul discorso dell'intelligenza artificiale, che 2 anni sul discorso dell'intelligenza artificiale, ragazzi, è un'era geologica infinita, ma l'integrazione è al limite del ridicolo. Cioè, loro hanno presentato quello che Google già fa da 2 anni. Io, non lo sapete, non è che sto simpatizzante di Google, per me devono morire tutti, però è vero pure che se morono tutti, poi chi è che ci fa le cose che ci piace usare? Comunque, niente, ragazzi, grandi polemiche e soprattutto grossa battuta dal punto di vista di Apple, e ti rendi conto che anche l'azienda più ricca stracazzica del mondo, alla fine comunque basta, cioè tutti gli imperi finiscono, basta qualcosa per inclinare un po' il proprio potere, anche se poi in realtà, cioè, non è che vuol dire che oggi Apple è caduta per qualche ragione, insomma. The Alan Parsons Project con iRobot e basta. Comunque, so che non si mettono banane strumentali in radio, però questo ci stava, e insomma, facciamo un po' il paglio con The Night of the Robots di prima, che spero vi sia piaciuto. Devo dire che tutto sommato è il brano al quale ho lavorato di meno, ma è il brano che mi è piaciuto. Devo dire che non mi è dispiaciuto, ecco, diciamo così. E comunque c'è stata, dato che continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, nella, diciamo, nella suggestione, e io poi chiamo anche allucinazione collettiva un po' che ci sta cogliendo, c'è stato ovviamente anche l'evento Nvidia, che per tutti quelli che amano i videogiochi sanno che Nvidia è sostanzialmente quella che fa le schede grafiche più powerful del mondo e anche le più costose, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista ludico, insomma, delle schede che ovviamente raggiungono una qualità fotorealistica in tempo reale con il ray tracing e tutti gli annessi e connessi. però insomma si sa già da un po' di tempo a questa parte che i chipset di Nvidia non servono soltanto ovviamente a spremere la grafica, ma sono utili, diciamo, sono funzionali per l'addestramento e le funzionalità dei sistemi di intelligenza artificiale. E quindi in questo momento Nvidia si trova in una sorta di punto focale di attenzione da parte di tutta quella che è ovviamente l'industria di maggiore movimento in questo momento, che è chiaramente tutte quelle aziende che stanno sviluppando su modelli di altri o su modelli creati internamente le proprie tecnologie di insomma basate su intelligenza artificiale, perché poi non è tanto da dove prendi la fonte o se la fonte te la costruisci tu, è quello ovviamente di costruire un tool che secondo te può avere una funzione rispetto a questo discorso dell'intelligenza artificiale. Perché per esempio io durante questi giorni ho avuto modo di provare Notebook LM di Google, e lo trovo uno strumento interessante, cioè lo trovo uno strumento utile e interessante, prima di tutto perché non è un chatbot come ChatGPT dove gli dici ciao ma tu mi vuoi bene, perché poi dopo alla fine c'è l'entusiasmo all'inizio questa roba, però poi dopo la gente ci limitano, non ci danno la possibilità di usare ChatGPT, poi dopo non lo usa nessuno ovviamente se non quelli che cercano di creare libretti per bambini da pubblicare su Amazon e riempire il mondo di merda, insomma. E invece quest'altro strumento di Google è interessante perché lui non accede ad internet e praticamente prende le informazioni su tutte le pubblicazioni che tu gli carichi su ogni argomento. Tu apri un argomento che può essere i buchi neri, raccogli ovviamente, lì sta un po' a te cercare ovviamente tutte le documentazioni che sono attendibili, quindi prendere ovviamente tutti pubblicazioni, paper universitari, quelli che sono ovviamente pubblici, gli articoli scientifici, e puoi caricare PDF, puoi caricare dei file da Google Drive, puoi caricare un testo, cioè nel senso fare copia e incolla del testo, o addirittura fare un copia e incolla del URL di una pagina interessante che ti ispira, insomma, o che comunque è utile alla tua ricerca, e lui se la carica, analizza tutto e ti fa una sorta di sommario di tutto quello che tu hai caricato, anche se è in varie lingue, lui comunque ti sommarizza tutto in italiano, ovviamente, o nella lingua che tu scegli, e a quel punto ti dà degli strumenti per organizzare le informazioni che tu hai caricato a seconda di quello che tu devi fare. Se ti scrivi un articolo giornalistico, se devi fare una tesi, se devi fare una ricerca, se vuoi approfondire determinati argomenti piuttosto che altri, quindi devi essere selettivo nelle cose, ti aiuta insomma tramite una serie di strumenti o tramite il prompt, ovviamente puoi fare anche domande liberamente, ti aiuta ad organizzare questi argomenti, non prendendo le informazioni da internet, quindi andando a prendere, a raschiare a cazzo di cane come fanno tutte le altre chat. Diciamo che se tu sei consapevole del materiale che tu hai caricato, questo ti permette di fare potenzialmente un buon lavoro, perché nelle rischematizzazioni, nei riassunti, nel prendere una strada piuttosto che un'altra, lui comunque nelle informazioni che ti pubblica ti mette sempre le note di riferimento ai paper o ai documenti che tu hai caricato. Quindi tu puoi fare una sintesi o fare uno schema, se vuoi parlare in un podcast ad esempio dei buchi neri, lui ti aiuta a costruire tutto quello che è ovviamente l'informazione del podcast, quindi organizzare tutte quante le informazioni, a scrivere insieme a te la puntata, attenzione, non è che lo fa al posto tuo come farebbero gli altri, e poi dopo che tu hai organizzato praticamente la tua puntata ti ci fa anche un'analisi critica dicendo quali possono essere gli aspetti da approfondire o da insomma, diciamo che poi sta a te chiaramente decidere quello che ti sta bene o non ti sta bene. E questo è uno degli strumenti interessanti, così come trovo interessante l'ultima versione degli occhiali di Meta, che ho visto provati insomma in diverse occasioni da persone che hanno, l'hanno provato in maniera sperimentale. Perché? Perché quello che io dicevo da tantissimo tempo è questa cosa del, dell'utilizzo, dell'applicazione in senso funzionale, civile di queste tecnologie. E che se noi vediamo solo l'intelligenza artificiale come quello che ti fa fare i libricini o ti fa fare le canzoni, capisco che ci possa essere un problema, che ci possano essere delle disquisizioni su questa cosa qui, ed è anche giusto. Ma se tu crei uno strumento che aiuta una persona ipovedente a, a girare per il mondo, a fare la spesa, a vedere che numero è l'autobus, a dirgli quando è il momento di scendere alla fermata, a, a indicargli che quel cartello è il negozio che sta cercando, a tradurgli delle cose scritte da una parte o a leggere per conto suo cose che lui non potrebbe leggere, allora a questo punto tu stai facendo un discorso che per me è accettabile da un certo punto di vista. Perché se tu costruisci questa ipertecnologia, la devi comunque rendere utile per delle cose che siano funzionali e utili anche a livello civile, perché se la tecnologia non impatta in maniera importante nella, nella società, a che cosa serve? Questo bisognerebbe domandarci, no? Poi io capisco che tutta la fuffa è importante, perché la fuffa è indispensabile per creare quel marketing che è ulteriormente indispensabile per creare quei fondi di investimento che altrimenti impedirebbero, cioè ci sarebbe veramente una difficoltà nel costruire ovviamente una applicare diciamo queste tecnologie e continuare nella ricerca e nello sviluppo. E quindi questi occhiali di Meta mi hanno molto sorpreso, devo dire la verità, perché stai parlando comunque non più dell'occhiale con la telecamera col quale vai a fare, e poi è ovvio che ritorniamo sempre al solito discorso, problemi sulla privacy, sì, tantissimi problemi sulla propria privacy, sì, tantissimi, non lo possiamo mettere, non lo possiamo escludere questo tipo di discorso. Però è vero pure che se tu vuoi sviluppare una cosa che è a favore del ragazzo ipovedente, è qualcosa, purtroppo in questo caso bisogna accettarlo come compromesso, perché comunque quello che fa quel tipo di strumento sotto forma d'occhiale, quindi un qualcosa che tu già indossi, non è una cosa in più come quegli altri che si sono inventati quella specie di spilletta che ti metti sugli indumenti e ti proietta sulla mano le cose, oppure ti dice sull'orecchio questo è il barattolo di fagioli, cioè bene anche quello, va bene, però è chiaro che più la cosa è un oggetto che tu integri già nella tua esistenza e non devi riaddestrarti ad abituare ad avere, oppure essere guardato da qualcuno perché ah guarda quello c'ha la spilla di Star Trek sul petto, e invece no, in realtà è uno strumento che ti aiuta ad interagire con il resto del mondo, ad essere questa tecnologia smart che ti aiuta in qualche maniera a vincere determinate cose. Ecco, quindi devo dire che la tecnologia di Meta mi ha molto sorpreso. E tornando a Nvidia, Nvidia ha fatto ovviamente questo suo pippone classico sull'intelligenza artificiale, legato ovviamente poi al discorso dell'ambito grafico, a Omniverse, che è ovviamente lo strumento di sviluppo e collaborazione grafico, insomma, che integra Real Engine, cioè che può essere integrato con Real Engine, con tanti altri, comunque vabbè, è una sorta di appunto di engine di Nvidia, con il quale ovviamente animatori, architetti, progettisti, automotive e via dicendo possono cooperare insieme con uno strumento potente basato ovviamente sulle RTX. Però poi alla fine c'è stata questa cosa, no? Che a molti ha fatto storcere la bocca e ha fatto fare la domanda delle domande. Cioè, se noi scriviamo da decenni libri sul pericolo dei robot che ci ammazzeranno a tutti quanti, se facciamo da decenni film sui robot che ci ammazzeranno a tutti quanti, se continuiamo ad avere paura dei robot che ci ammazzeranno a tutti quanti, perché continuiamo a sviluppare la tecnologia sui robot che ci ammazzeranno a tutti quanti? Perché Nvidia ha presentato questa sua tecnologia di intelligenza artificiale dicendo che è giunto il momento che l'intelligenza artificiale diventi fisica, e quindi applicare tutte le sue tecnologie basate sull'intelligenza artificiale a delle macchine che possano interagire con il resto del mondo, aiutare le persone e riparare e curare se stesse, oltre che autocostruirsi, che è l'elemento che fa più, no? Dice, vabbè, ma questi se addirittura se cominciano ad autocostruire dopo, o ad autoripararsi, o a riparare altri robot come loro, insomma, comincia a diventare un po' inquietante, no? Ecco, io non ho un pensiero fisso su questa cosa, devo dire la verità. Cioè, nel senso, il problema è sempre quello, è l'importanza, il valore e la dimensione che tu dai a uno strumento piuttosto che lo strumento in sé. Se tu questo tipo di strumento lo metti all'interno di un universo senza avere la possibilità di avere un minimo di controllo, autocontrollo, è chiaro che, vuoi dire, tutto può finire male, ma non perché l'intelligenza artificiale diventa cattiva, non vedo l'intenzionalità, no? Perché qui dobbiamo ritornare sempre al fatto che non c'è nessun elemento empirico che ci dice che ci sia un'intelligenza dietro, no? O comunque un'intenzionalità, una coscienza, ecco, questa piace parlare di coscienza. Però è ovvio che un computer che ha possibilità di avere un pensiero sviluppato, diciamo così, diciamo una capacità di elaborazione sviluppata e che ha potere nei confronti del mondo fisico che gli sta intorno, lui ragiona da computer. Cioè, quello che serve e quello che non serve. E a volte ci viene da pensare, ma noi serviamo? Non lo so. Non lo so se serviamo, soprattutto se pensiamo, insomma, a quello che sta succedendo in Palestina, che non c'entra niente, però lo volevo dire perché alla questione della Palestina io ho provato a fare questa canzone, che non so se è venuta bene perché ci ho lavorato tanto, ma in realtà avrei potuto lavorarci di più, però la voglio far sentire perché per far capire che secondo me con questi strumenti, se si ha una buona capacità di scrittura, e forse in questo caso non so se ci sono riuscito, qualcosa di decente può uscire fuori. E questo è un mio pensiero. Voi sapete che nelle scorse settimane, poi alla fine ne ho anche un po' parlato di questa questione di Gaza, anche se ho cercato di limitarmi, no? Cioè di escludere questa cosa dal grande reset, però in un paio di occasioni ho dovuto parlare perché quello che sta succedendo è atroce e ci rende, come ho detto, tutti quanti un po' responsabili. E quindi alla fine, una notte che non dormivo, alla fine mi sono messo a fare sta cosa che probabilmente non vi piacerà, però io l'ho fatta lo stesso. Tra le macerie di un campo desolato giace un bambolotto, l'occhio spento e vuoto, e le braccia di una madre un guscio rotto, mentre il pianto si fa lutto, sempre più remoto. Ninna nanna, fuoco e cenere, sui tetti caldi di rabbia silente, l'urlo dei padri al cielo che non sente, mentre l'alba di fumo avvolge la gente, e la morte il suo tributo chiede nuovamente, e la morte il suo tributo chiede nuovamente. Miniti innocenti, fede e ardimento, nini in danza con l'angelo tetro, pagano il prezzo di questo tormento in un limbo di pena, senza un destino certo. Ninna nanna, fuoco e cenere, sui tetti caldi di rabbia silente, l'urlo dei padri al cielo che non sente, mentre l'alba di fuoco avvolge la gente, e la morte il suo tributo chiede nuovamente, e la morte il suo tributo chiede nuovamente. Lacrime amare, un fiume che tace sul volto della pace, ormai più non appare tra i quartieri fantastici. che non muore. Lacrime amare, un fiume che tace sul volto della pace, ormai più non appare. Tra i quartieri fantasma non cresce un fiore, solo cenere amara e il tuono che non muore. Ninna nanna, sogni e terrore in questa terra che il sangue colora, un limbo perpetuo senza più l'alba d'oro, dove l'olivo ormai non germoglia né fiora, dove l'olivo ormai non germoglia né fiora. Allora, prima di tutto dico una cosa, cioè nel senso che c'ho alle 3 di mattina questa cosa del non germoglia né fiora, per fare ovviamente la rima, a un certo punto sta impazzito, non mi veniva proprio più niente, l'ho lasciato così, e tanto rende il senso, che poi secondo me a me è assurdo, a me comunque alcuni pezzi di questa cosa che comunque ho scritto, no? Nel senso in qualche maniera... cose che magari ho estratto da cose che avevo già scritto in precedenza, ho cercato di fare una sorta di purpurri, diciamo, di quello che era un pensiero, e l'ho organizzato ovviamente in questo brano, no? Che alla fine non è manco brutto, cioè nel senso c'ha il suo perché. Io penso che se una cosa del genere la dessi a quelle due persone che conosco, che fanno musica seriamente, ci potrebbero tirar fuori qualcosa di carino. A me piace anche il tema musicale, cioè anche su quello ho promptato molto, perché volevo cercare di trovare un qualcosa che fosse attinente un po' con quello che volevo dire. Intanto Francesco ci mette lì l'immagine fatta con l'intelligenza artificiale, perché io l'altro giorno dicevo oddio Apple, e lui dice che potrebbe essere una delle più belle bestemmie, insomma, che siano mai state concepite dall'uomo, e ha fatto questa immagine del dio Apple, anzi, quindi la trovate su Direct Runtime, se volete la cercate, mentre che giustamente Walter dice vabbè, non serviamo a nulla, anzi siamo un problema. Allora ho fatto la citazione di Viger nel Star Trek The Motion Picture, dove praticamente Viger si domandava cosa erano quelle unità a base carbonio che infestavano l'Enterprise. Gran film, quello veramente devo dire, quando ero piccolo e l'ho visto mi emozionò molto quel film, perché c'era molto Star Trek dentro, proprio questa cosa dell'equazione umana, molto bello, molto bello. E prima di lasciarvi avevo promesso a Francesco una canzone, e quindi gliela metto. E vabbè, mo chiudendo faccio un regalo pure a Walter Sbano, ma così, giusto una cosa che non faccio mai, non faccio mai regalo a Walter Sbano, ma mettere questo genere di canzoni, però oggi ci sta, così è un po'. Qui è stata una puntata un po' altalenante, con momenti insomma dove abbiamo riflettuto su alcune cose, abbiamo riflettuto su altre, magari c'è stato anche quel momento un po' di riflessione, Vi saluto a tutti, buon sabato, buona domenica, quindi buon fine settimana, qualsiasi cosa vi porterà. Vi ricordo questa sera alle 20:50 su rantemradio.it, Euroludica 2024, Italia-Albania. State insieme a noi, guardatevi la partita, abbassate il volume, ascoltateci, perché almeno oltre a vedere la partita vi farete sicuramente un paio di risate. Saremo lì, insomma, a farvi compagnia, come è nostra tradizione durante questi eventi. Quindi buona giornata a tutti e beccatevi questa. Aspettate, no, ho provato a fare una cosa ma non ha funzionato, e devo capire come ecco, così funziona. Ciao.